Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, Dio non è ingiusto tanto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento fino alla fine, perché non diventiate pigri, ma ciascuno piuttosto imitatore di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi delle promesse. Oggi Gesù, in questa lettera agli ebrei, ci fa presente quanto noi dobbiamo cercare di essere pieni di zelo e soprattutto non dobbiamo diventare pigri. Infatti mi ha colpito di tutto questo, di questi versetti che vi ho letto, questa frase: desideriamo che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede divengono eredi delle promesse. Ecco, questa frase mi ha colpito perché veramente la cosa più importante quando nella vita subentra la noia, subentra l'indolenza, è proprio quella di reagire e di cercare di fare esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. Ecco, quindi oggi vorrei meditare con voi su questo vizio capitale, che è il vizio della pigrizia, che è detto anche lascivia. E che cos'è la pigrizia? L'etimologia della parola pigro, piger in latino, piger vuol dire lento, e pigrizia è quella indolenza, quella mancanza di determinazione, quell'apatia, quel rinviare, quel procrastinare, quella stanchezza, quella mancanza di entusiasmo che sperimentiamo e che e ci porta a non agire, ma peggio ancora, non solo non agire, ma essere addirittura appunto non curanti. E in greco questa parola pigrizia è ancora più esplicita, mentre in latino piger vuol dire semplicemente lento, in greco pigro si dice argos, che l'alfa primativo, erga sono le opere, quindi uno che è senza opere, uno che non lavora, uno che è senza impegno, senza attività. E oggi vogliamo vedere, analizzarci un po', ma io come sono? Sono pigro o non sono pigro? Da che cosa lo si può vedere? Ecco, uno, per capire come siamo fatti, per capire se abbiamo un vizio capitale o no, perché ognuno ha i suoi vizi, sì, i vizi capitali sono 7, in parte ce l'abbiamo un po' tutti, però in alcune persone c'è preponderanza verso un vizio piuttosto che un altro. Allora, come facciamo a vedere se siamo inclini a un vizio piuttosto che un altro? Dobbiamo guardare la giornata, dobbiamo guardare i fatti, la cosa più importante è guardare i fatti, perché alle volte possiamo illuderci anche riguardo a noi stessi. Per esempio, tanti dicono: ah, io sono la persona più paziente sulla faccia della terra. Poi ci vivi insieme e vedi che questa persona, appena c'è un contrattempo, un qualcosa che va storto, subito sbuffa, accusa gli altri, si lamenta. Allora dici: ma dove sta tutta questa pazienza? Oppure quelli che dicono: ah, io odio quelli che dicono le bugie, e poi vai a vedere, sono i primi loro a dire le bugie. Insomma, ecco. Quindi, per vedere se abbiamo questo vizio capitale della pigrizia, dobbiamo cercare di vedere i fatti, cioè la nostra giornata. Per esempio, suona la sveglia, mi alzo subito, oppure indugio nel letto, oppure anche se non vado a lavorare la domenica, va bene, sì, posso riposare un po' di più se ne ho bisogno, ma altrimenti è bene alzarsi, organizzarsi, darsi una disciplina. E io vedo tanti giovani, ma anche meno giovani, che magari non hanno un'attività lavorativa stabile, tendono molto a lasciarsi andare, a alzarsi quando vogliono, mangiare quando vogliono, uscire quando vogliono. Invece è importante avere una regola di vita, una disciplina. E E poi sono tutti fatti, oppure se devo fare un compito, di solito lo faccio subito o rimando. C'è gente che se deve fare qualcosa oggi la farà sicuramente domani, c'è gente invece che se deve fare una cosa oggi l'ha fatta già ieri, cioè dipende dalla personalità, da come è il nostro temperamento, no? Quindi cerchiamo di vedere i fatti. Sono io pigro. Allora, per vedere se abbiamo la pigrizia, dobbiamo guardare la nostra giornata, se ci sono momenti appunto in cui ci lasciamo andare, se siamo senza determinazione, se non interveniamo, se tendiamo a procrastinare gli impegni, se tendiamo a non prenderci responsabilità, se siamo allergici a ogni sforzo, impegno. Tutto ciò che comporta fatica, tutto ciò che comporta disciplina, cerchiamo sempre di evitarlo. Ecco, questi sono tutti segni che abbiamo la pigrizia. E come la si combatte la pigrizia? Ecco, la pigrizia la si combatte innanzitutto riflettendo che la vita passa, memento mori, cioè ricordati che muori. E questo non per spaventarci, ma per dare più appunto importanza a ogni momento. La vita non ritorna, quindi cerchiamo di viverla in pienezza, quindi molto aiuta la riflessione, ecco perché è importante meditare, riflettere, ogni giorno prendere la parola di Dio e fare qualche proposito, proprio per questo. E poi l'esercizio come per tutte le virtù. Quindi cerchiamo oggi di combattere questa pigrizia. E di esercitarci appunto con la virtù contraria che è proprio la laboriosità. E volevo leggervi a questo riguardo una storiella che forse già conoscete, che è molto carina. Questa è la storia di quattro persone chiamate ognuno, qualcuno, ciascuno e nessuno. C'era un lavoro importante da fare e ognuno era sicuro che qualcuno lo avrebbe fatto. In effetti ciascuno poteva farlo, ma alla fine nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di ognuno, però ognuno pensò che ciascuno potesse farlo, ma nessuno capì che ognuno l'avrebbe fatto. Finì che ognuno incolpò qualcuno perché nessuno fece ciò che ciascuno avrebbe potuto fare. Buona giornata.